Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ed eccoci, nuova domenica, nuova puntata di Personal Best qui a Radio 24, oggi senza Ivana Di Martino che tornerà prontamente domenica prossima. E allora, breve premessa prima di introdurre l'ospite di oggi, perché come abbiamo anche sentito dai GR qui a Radio 24 nel corso della settimana appena trascorsa, il mondo del running e soprattutto della maratona purtroppo stanno perdendo gli appuntamenti internazionali più importanti, come la maratona di New York di novembre, la maratona di Berlino a settembre, maratona tra l'altro protagonista di grandi record, per cui molto attesa. Invece per quanto riguarda a casa nostra, la mezza maratona di Roma Ostia in programma l'8 marzo, poi posticipata dopo l'estate in attesa insomma degli eventi, ha deciso a questo punto di far saltare in modo definitivo l'edizione 2020, dando direttamente appuntamento al 21 febbraio 2021, tenendo valide tra l'altro le iscrizioni di quest'anno. Si cercano intanto nuove soluzioni per dar comunque seguito alla voglia di corsa su strada e sui sentieri, come abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane, con gare a cronometro, gare virtuali e altre modalità. Abbiamo anche raccontato il futuro dell'atletica con Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, futuro che ora è diventato presente, come ci racconta il nostro ospite di oggi, la velocista e ostacolista Luminosa Bogliolo. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, Luminosa, la scorsa settimana sei tornata in pista per una gara, o meglio un allenamento cronometrato a Formia, 100 metri senza ostacoli per una volta. Com'è andata? Sì, è andata molto bene. Ovviamente ho partecipato a una gara che non è la mia solita gara, quindi senza ostacoli è tutto un po' diverso, però intanto è stato importante poter tornare a gareggiare. È stato molto bello, anche se a corsie una sì e una no, diciamo corsie alterne, però appunto è sempre bello gareggiare in qualsiasi situazione, in qualsiasi gara, quindi mi sono accontentata anche di questi 100 senza ostacoli. È un po' più facile senza ostacoli? Sembrerebbe, in verità no, perché non so mai bene cosa fare, come affrontare la gara, invece negli ostacoli so che devo sempre andare a prendere quell'ostacolo, quindi sono più in crisi sui 100 piani che non negli ostacoli, dove invece sembra che sia molto più difficile. E ti mancava un po' la gara? Sì, sicuramente. Poi io adoro gareggiare tanto, quindi queste sensazioni, questa adrenalina mi è mancata. Nel frattempo l'atletica è tornata in pista anche qui a Milano, abbiamo visto insomma delle buone prove venerdì a campo 25 aprile, mentre ieri è stata la volta di Modena e Sassari, oggi sono attesi Tamberi ed Ancona, Iomide e Follorunso a Piacenza, e domenica prossima tornerà invece in pista a Rieti per 100 metri, questa volta con gli ostacoli però. Sì, meno male, finalmente arriva la parte più divertente, quindi ci saranno gli ostacoli a Rieti. Si correrà lì a corsie alternate? No, in verità probabilmente dal 4 potremo iniziare a correre sfruttando tutte le corsie. Fino al 3 mi sembra sia ancora corsie alternate, a quanto pare. Poi ovviamente viviamo giorno per giorno, perché non si sa mai cosa cambierà. Però speriamo che si possa correre su tutte le corsie. Anche perché è una battuta, insomma, nel calcio si abbracciano, nel tennis si fanno festa, l'atletica corre distanziata. E poi oltretutto noi abbiamo le nostre corsie, quindi non ti puoi spostare la linea. Ci squalificano se cambiamo corsia. Come sono andati questi mesi senza gare? Sono stati molto particolari, più che altro a partire appunto da quelli che sono stati gli allenamenti. Ci siamo un po' dovuti riadattare a quello che avevamo. Io personalmente io di solito vivo a Pinerolo, vicino a dove studio, e invece in questi mesi sono stata ad Alassio con i miei genitori, dove ho un bel giardino, quindi sono riuscita ad allenarmi in questo giardino e attorno alle strade, anche se da me ad Alassio è tutto sali e scendi, quindi facevo un sacco di salite e qualche discesa. Più da fondista, diciamo, che esatto, da velocista. Esatto. Luminosa, tu hai avuto un ottimo 2019 con loro alle Universiadi, la vittoria a squadra, l'europeo di Beat Gauche, un bel esordio al mondiale di Doha e un bel inizio anche il 2020, poi insomma un po' il vuoto. Un po' un peccato, diciamo. Sì, mi sono veramente tanto divertita. Poi io preferisco le outdoor che non le indoor. Quindi ho iniziato qualche gara indoor, poi ho fatto anche una caduta incredibile e da lì ho concluso le gare per un piccolo problemino, quindi non ho potuto fare i campionati italiani, e da quel momento in poi appunto è successo quel che è successo, quindi non c'è più stata possibilità di gareggiare. però nello scorso anno mi sono divertita. E sulla carta, insomma, sarebbe stato anche un 2020 giusto, insomma, l'anno giusto, diciamo, quello delle Olimpiadi, sì, europee, insomma. Sì, esatto, l'anno più bello, infatti sono partita già con le indoor molto emozionata per quest'annata e allenandomi sempre più seriamente, non perché fosse l'anno olimpico, ma perché appunto di anno in anno imparo qualcosa di più e capisco come affrontare l'atletica, e quindi sì, sicuramente sarebbe stato un anno fantastico. Però anche questo spostamento alle Olimpiadi può essere anche un'opportunità, diciamo, no? Un anno in più per prepararsi. Sì. Certo, certo, ho un'età giusta per poter slittare di un anno, non sono a fine carriera, quindi posso permettermi di aspettare un anno, anche se ovviamente volevo essere lì, cioè mi sentivo già, sì, lì, sì, sì. Quindi inizialmente è stata una batosta, però poi riflettendoci anche con altri, molti altri atleti, abbiamo un anno per imparare nuove cose, quindi arrivare con qualche conoscenza in più alla partenza a Tokyo. Poi all'improvviso un po' per tutti le priorità sono cambiate, diciamo, purtroppo. Sì, esatto, esatto. Diciamo che lo sport non è diventata la cosa da per noi sportivi, comunque dove lo sport viene prima di tutto, non era la cosa più importante in quel momento, perché prima c'è la salute, ovviamente. Parlavi di studio, lockdown, perfetto per studiare. Tu stai studiando veterinaria, no? Sì. Sì, esatto, perfetto per studiare, infatti mi sono messa sotto, anche se adesso sono ripartite le gare, quindi qualcosa sicuramente riesco a dare, ma mi è servito per studiare, quindi ho trovato anche questo lato positivo, diciamo, in una situazione molto grigia. E tu studi veterinaria, no? A che anno sei? Sì, sono al quinto anno, diciamo quasi fuori corso adesso. Però mi sono presa quest'anno, soprattutto, diciamo, mi ero presa quest'anno olimpico, sì, sì. E niente, mi prenderò anche il prossimo. Un anno in più, diciamo. Sì, esatto. Invece, qual è stato il tuo approccio all'atletica? Quando è che hai iniziato? Io ho iniziato, in verità, al liceo, andando una volta a settimana, giusto per andare un po' all'aria aperta, per parlare un po' con gli amici, ma mai seriamente, finché all'università, al secondo anno, mi sembra, di università, da un momento all'altro è venuto a mancare quello che era il mio allenatore, che era l'allenatore di Emanuele Abate, che è il primatista italiano dei 110 ostacoli, sì. E da lì sono successe una serie di cose che io ho dovuto scegliere se smettere, perché ero in Sardegna a studiare, perché veterinaria è come medicina, quindi in base al punteggio che si fa si può finire in tutta Italia, e quindi ho scelto se continuare a fare quindi un po' più sul serio o smettere. E nel mentre ho vinto i campionati italiani di categoria completamente a sorpresa, quindi da lì mi sono, diciamo, impegnata molto di più nell'atletica. Quindi lì hai capito che sarebbe stata la tua specialità quella? Sì, sì, sì, cioè, comunque che ci potevo provare, sicuramente mi sarei divertita. Qual è la difficoltà maggiore dei 100 metri ostacoli? Oddio, sicuramente forse la ritmica, poi ogni atleta in base alla caratteristica ha sempre una difficoltà, io ad esempio ho difficoltà a stare all'interno di questi 8,50 metri, tra un ostacolo e l'altro ci sono 8,50 metri, quindi riuscire a non esserci troppo stretta, nel senso che non arrivare troppo vicino all'ostacolo, perché più arriviamo vicino e più magari saltiamo troppo in altro ostacolo e quindi perdiamo tempo, diciamo, nella fase in volo. E quanti passi fai? Tra un ostacolo e l'altro 3, e poi ci sono 8 passi dalla partenza dei blocchi al primo ostacolo, e poi all'arrivo dipende un po' dall'atleta. Come ti trovi lì. Sì. E invece quando corri al coperto cosa cambia? Lì sono 60 metri. Lì sono 60 metri e cambia appunto la distanza dall'ultimo ostacolo e all'arrivo. Ci sono invece che 10 ostacoli, ce ne sono 5, e la distanza tra l'ultimo ostacolo e l'arrivo è un po' più lunga. Ed è tutto velocissimo, non ti rendi conto di niente, diciamo. In verità io mi rendo conto, cioè alle indoor molto meno, però quando stai bene, quando fisicamente si sta bene, in gara inizia, riesci a pensare, riesci a avere una situazione molto lucida e quindi capire cosa stai facendo, anche se vista da fuori sembra una cosa così veloce che sì, sì, non, sì, che non hai tempo di ragionare, respirare a volte. Tu hai chiuso, diciamo, hai iniziato la stagione con una gara indoor, no? In Germania, se non ricordo male. No, ne ho fatta prima una in Italia, ma una batteria sola, avevo fatto solo la batteria. E poi sono andata in Germania, dove ho fatto subito il personale, dopo sia in batteria che in finale. Sì. Quindi l'anno era iniziato bene, diciamo. Sì, infatti. Poi mi piace viaggiare, mi piace andare a fare le gare fuori, mi stimola molto di più nervosamente, quindi anche se ogni volta devo partire da sola, ecco. Quindi da sola devo andare in giro, però mi diverto comunque, sto imparando un po' l'inglese, ecco. Quindi me ne senti. Quindi ti è mancato il viaggio e anche le gare sono mancate, quindi due cose. Sì, in sicuramente, non ero abituata a stare così tanto tempo a casa. Allora, parlavo tempo fa con Davide Re, no? Quattrocentista, e mi diceva che in qualche modo, insomma, la mancanza di grandi eventi con cui confrontarsi, no? Insomma, con altri atleti è anche, insomma, per chi corre in pista è anche una fortuna, insomma, potersi confrontare con il cronometro, no? Per cui magari c'è lo stimolo appunto del cronometro a cercare di fare qualche record o battere i propri record personali. E abbiamo visto, insomma, niente Olimpiadi, niente europei, potrebbe essere l'anno giusto per andare a caccia del record italiano. Sì, quello sicuramente, diciamo che durante tutta la quarantena è stato per un po' tutti gli atleti difficile cercare di mantenere la concentrazione, e soprattutto perché non sapevamo se avremmo potuto gareggiare, dove, contro chi, se da soli o cosa, quindi sicuramente questo stimolo del record italiano mi è servito per potermi allenare bene, pensando che anche se non avessi potuto uscire dall'Italia, non fossi potuta andare a gareggiare contro altre persone, comunque sia sempre nell'atletica, come magari anche nel nuoto, il confronto col cronometro, che in verità è un confronto molto duro. Sì, sì. Non vinci mai contro il cronometro, quindi qualche volta dai qualche volta, appunto, se non hai proprio l'obiettivo, però alla fine ce l'ha sempre vinta lui. E tra un po' andrai a Livigno invece, non in vacanza però. In verità no, io dovrei andare a Rieti, quindi vediamo un attimo, poi ci sono vari giri, decidono molto anche i miei allenatori, io per ora spero di farmi un bagnetto al mare, però vediamo se poi i miei allenatori cambieranno idea o cosa faremo per andare anche a Livigno o anche in altri posti dove fare il raduno. Tu sei ad Alassio, per cui perfetto, insomma, per andare al mare, qual è la situazione lì dal punto di vista del turismo? No, si sta bene, c'è anche molta gente, ma si mantiene comunque la distanza di sicurezza anche nelle spiagge, dove oltretutto piano piano stanno tornando perché ci sono state molte mareggiate, però la sabbia sta tornando, quindi c'è anche la possibilità di mantenere una certa distanza di sicurezza anche all'interno delle spiagge, nei locali, per i pochi giri che riesco a fare in giro per Alassio sto notando proprio che si riesce a seguire tutto perfettamente. E in questo lockdown il fidanzato l'hai visto? No, meno male che esiste la tecnologia, però si no. Può dire, no? Lorenzo Perini, anche lui, insomma, azzurro, 110 metri ostacoli. Sì, abbiamo avuto anche qualche ostacolo in questa quarantena per vedersi. Sono mancate le gare in cui vedersi, tra l'altro. Sì, anche i raduni, riusciamo a vederci spesso, sì, così. Poi in questa stagione in cui è bello, è anche più bello venire a allenarsi qua ad Alassio, quindi riesce spesso a venire in zona o comunque con un clima, magari a Milano fa molto più caldo, c'è molta più afa, invece qua se è più ventilato, quindi è anche più un piacere per lui scendere anche per allenarsi, quindi ecco. Deve correre in salita anche lui, insomma, lì. Per adesso infatti secondo me non è sceso ad Alassio in quarantena anche per quello, perché sennò trovava troppe salite, lui a Milano c'è un po' più di pianura. Ecco, ma è un velocista, che tipo di allenamento fa ad Alassio lì nello specifico? Qua ad Alassio non abbiamo la pista in verità, infatti. Però il comune mi ha messo a disposizione in un palazzetto al coperto, ho potuto stendere un pezzo di pista per l'inverno, soprattutto quando piove, c'è molto vento, quindi abbiamo 40 metri dove posso almeno fare delle partenze, se no normalmente mi alleno a Boissano, che comunque è sul mare, quindi non si sta sempre molto bene. Ad Alassio comunque c'è una grande diciamo cultura di ostacoli, perché appunto c'è il climatista italiano, sì. E anche tanti altri forti ostacolisti, quindi non ti vedremo correre per strada, insomma. No, ho corso sulla spiaggia volentieri, anche se non riesco, preferisco stare in pista, diciamo, con le chiodate, però è anche piacevole correre un po' in spiaggia. E in chiusura luminosa, dopo Rieti cosa succederà? Dopo Rieti probabilmente farò in verità il 4 una gara a Rieti e l'11 un'altra gara a Rieti, ma forse di nuovo sui 100 piani, giusto perché magari riesco a capire come si corrono, per fare una gara allenamento, e poi forse il 16 a Savona, quindi sempre in casa. Grazie mille a Luminosa Bogliolo, a presto allora. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto, noi ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.